Benissimo, allora adesso tocca a dottor Paranini di Padova, che parla su Lorenz von Stein, tu sbaracchi. Sbaraccare tu. Nel senso tolgo la baracca. Era implicita una valutazione. Che parla su Lorenz von Stein, il problema... la dinamica, la dialettica, non so cos'è, Verfassung, Verwaltung in Lorenz von Stein. Se io voglio permettere che questo mio intervento è una proposta di lettura del problema all'interno di Lorenz von Stein, qui si tratta di verificare se la lettura è convincente o se invece... Allora, Carl Schmitt ha interpretato la posizione di Lorenz von Stein nella storia del XIX secolo secondo l'angolatura offerta dal fallimento della rivoluzione del 48. Così Lorenz von Stein, che in un primo tempo viene giudicato come un significativo e originale prosecutore di Hegel all'interno della effettualità politico-sociale per la sua opera giovanile sul socialismo e il comunismo nell'odierna Francia, improvvisamente, dopo il 1848, scompare dalla scena politica. E come segno di questo capovolgimento della figura di Lorenz von Stein, Schmitt riferisce il giudizio che esprime Schmoller, che era discepolo di Stein, all'indomani della pubblicazione della Verwaltungslehre del suo maestro nel 1865. E Schmoller scriveva di Stein: Stein è uno scrittore che nessuno legge al di fuori dei letterati, che si può senza rimorsi lasciar perdere e cancellare, rappresentante solo l'alta sicurezza del punto di vista speculativo. Quindi, in un certa misura, parrebbe di capire che Schmitt, condividendo o riferendo, insomma, senza criticare questa posizione di Schmoller, parrebbe che l'insuccesso della rivoluzione del 48 significherebbe l'affondamento proprio del pensiero di colui che nel movimento di Stato e società, che fino al 48 appunto è stato esaminato, viene a perdere il centro della propria analisi critico-sistematica. Quindi la crisi del modello successivo al 48 dovrebbe essere anche la crisi dell'impostazione sistematica di Stein. Ora, altre linee interpretative invece, in particolare quella che è proposta da Beckenfeld in Italia da Miglio, ripresa anche dal professor Schiera, ravvisano invece piuttosto nella continuità tra primo e secondo Stein anche l'interesse di una lettura del secondo Stein. È appunto in questo tentativo, ossia di vedere come ci possa essere una continuità tra l'analisi della società e la proposta di scienza dello Stato del secondo Stein, che io voglio appunto proporre la lettura di un rapporto tra anche Verfassung e Verwaltung. Allora, in maniera estremamente breve e quindi estremamente lacunosa, io riferisco in un primo momento quale è la lettura che Stein fa della società, che del resto è anche la parte più nota, e poi vedo di proporre invece una lettura successiva degli scritti successivi, in particolare dell'Handbuch der Verwaltungslehre e del System der Staatswissenschaft, appunto in questa luce, ossia in rapporto a quanto contenuto all'interno della Geschichte relativamente all'analisi della società. Per brevemente, allora, cosa dice Stein della struttura della società? Stein dice che la società è necessariamente conflittuale. Il principio della società, che è enunciato nella prima parte della Geschichte, nel principio della società il rapporto di singolo a singolo è ridotto alla costrizione dell'altro ai propri fini individuali. Si instaura quindi per Stein all'interno della società una reciproca dipendenza nella conquista del mezzo mediante il quale rendere l'uno dipendente dall'altro. Questa attività diviene l'elemento motore della società e il suo principio ne è l'essenza. Il sistema al quale dovrà far riferimento la scienza della società sarà allora il sistema dell'interesse, l'interesse individuale, l'interesse alla dipendenza reciproca dell'uno nei confronti dell'altro, il quale interesse esprime propriamente la dinamicità dell'insoddisfazione del soggetto. Ecco allora che l'interesse, per Stein, è il principio vitale della società. Più oltre, in base a questo principio, la vita della società si snoda attorno al concetto di lavoro come produttore di proprietà. È infatti, innanzitutto, la proprietà che diviene la soddisfazione dell'interesse, la realizzazione del dominio sulla natura e quindi la libertà. Qui appunto ho citato e ho raccolto un po' quelle che sono le frasi più importanti di Stein relativamente a questa analisi. La logica di classe, ossia quella del rapporto tra proprietari e non proprietari, allora non è più qualcosa da espellere con un'opera di polizia, no? Come poteva pensare ancora la filosofia hegeliana, no? Ma è piuttosto lo specchio più fedele della logica di una società inevitabilmente segnata dal passaggio e dalla separazione tra proprietà e non proprietà. È evidente che questa analisi è retta da una morale di produttore reso libero in forza del proprio lavoro. Ma è la coscienza della raggiunta liberazione dalla natura estranea mediante la creazione di una seconda natura creata dall'uomo, quella della soddisfazione dell'interesse. Il mondo del soggetto libero dovrebbe essere, in questa prospettiva, il mondo di questa società. La sua origine artificiale, ossia l'origine dal lavoro, non toglie nulla a una sua fermezza naturale. Diventa questa società del conflitto, questa società appunto della liberazione mediante il lavoro, le due cose appunto pare convivano, pur avendo origine dal lavoro, sia da una categoria artificiale, si presenta in Stein come qualcosa di naturale, no? E questo l'ha dimostrato diffusamente anche il professor De Santis nel suo testo. La legge della società è legge naturale, è principio vitale del singolo e della società stessa. Tuttavia, Lorenz von Stein introduce l'analisi complessiva della realtà sociale, questa analisi complessiva della realtà sociale, all'interno di un aspetti un attimo qui. Sì, quindi parte, il suo punto di partenza è quello della soddisfazione dell'interesse del singolo e quindi apparentemente pare partire da un assioma dell'ideologia liberale, ma tuttavia perviene a risultati opposti a quella, all'ideologia liberale stessa. Infatti, non è tanto una difficoltà originaria dell'uomo sociale a impedire la composizione armonica dei conflitti, interessi dei singoli, appunto. Quindi Stein è fondamentalmente contrario ad un'ipotesi contrattualistica. Ma è proprio il conflitto l'esito corrispondente alla socialità umana. È la negazione della libertà altrui il mezzo per l'affermazione della propria libertà. Il principio della società non può essere per Stein, citazione, che la sottomissione del singolo all'altro singolo, il compimento del singolo mediante la dipendenza dell'altro. Von Stein polemizza quindi con chiunque abbia negato un tale oggettivo osservazione elementare, o che non sia stato in grado di notarla proprio per la sua evidente naturalità. Non può esservi interesse né al patto né al contratto da parte dell'individuo sociale. Infatti, uno Stato fondato sul contratto contraddice il principio vitale della società, in quanto presume che i principi naturali, come abbiamo spiegato prima, della singolarità e della diversità non debbano esservi espressi in maniera compiuta, ossia come massima esplicazione. La salvaguardia dell'unità, viceversa, per Stein è affidata allo Stato. L'esistenza di esso è l'esistenza di esso a proporsi immediatamente come principio unitario. Qui gioca naturalmente tutto il suo ruolo l'influenza della riflessione politica hegeliana, ma con una torsione che cambia il segno di questa proposta. Infatti, lo Stato è espressione dell'unità, dell'idea etica, della Gemeinschaft. Stein introduce questo concetto relativamente all'introduzione del principio dell'unità, no? Ma anche una sua giustificazione empirica nell'unicità della persona umana, di cui avevamo esaminato prima la dialettica. Se da un lato, quindi, l'unità espressa dallo Stato è il corrispettivo di una visione organicistica della comunità umana, essa però si caratterizza anche come l'ambito del compimento della personalità dell'individuo. Allora, lo Stato è, da una parte, personalità del singolo ed ha come referente necessario e complementare l'individuo che si sviluppa all'interno della società. No, vede nello Stato il compimento unitario del proprio conflitto. Ma d'altra parte, lo Stato è anche personalità in sé, in quanto è principio vitale autonomo dell'organismo della Gemeinschaft umana. Lo Stato dell'assoluta eticità che in Hegel ha la sua forza nella separazione dal principio della società rivive nella personalità organica di Stein, ma dovrà mantenere in sé un indice del compimento della società civile che Stein individua nella realizzazione della personalità individuale. Allora, c'è un concetto di Stato articolato secondo due aspetti. Per un verso è il punto d'arrivo dello sviluppo della personalità del singolo, sviluppo che si attua nella società e quindi deve essere in primo luogo garanzia del rispetto delle leggi, dello svolgimento dell'interesse del singolo, eccetera. Per un altro invece è presupposto della stessa vita sociale come realizzazione del principio unitario espresso dalla comunità come Gemeinschaft. C'è un carattere bifronte quindi del concetto di Stato, che appunto fa articolare ulteriormente questo problema. Infatti, il problema della definizione della personalità dello Stato. In primo luogo, la personalità autonoma dello Stato viene affermata in un contesto, come abbiamo visto, anticontrattualista, non per il motivo che il contratto sanzioni il primato del singolo sul tutto, come in Hegel, ma perché il contratto, come abbiamo già visto, comporterebbe per Stein proprio una limitazione della volontà del singolo. Quando Stein si domanda dove possa appoggiare, citazione, il fondamento di un organismo cosciente e attivo che non si fonda sulla volontà dei suoi membri, ritiene che questo fondamento debba esserlo esso stesso, cioè un organismo che è suo proprio fondamento. E tale organismo, dice Stein, non lo chiamiamo personalità. Poco oltre aggiunge che lo Stato, citazione, in quanto personalità autonoma, è indipendente dalla volontà e dall'interesse del singolo, e poiché raccoglie nella sua personalità l'unità di tutti, è chiaro che gli interessi di ciascuno sono anche i suoi. In questo modo, proprio lo Stato, come altro, come diverso dal singolo, è la realizzazione della volontà del singolo. Ma abbiamo visto che lo Stato non è solo questo, e anche dovrebbe essere anche la realizzazione della personalità del singolo, non soltanto appunto la personalità espressa dalla Gemeinschaft. Infatti, secondo l'altro polo, la determinazione della personalità dello Stato viene fornita da quella dei singoli cittadini, invece. E qui appunto c'è una contraddizione. Infatti, abbiamo altre citazioni che dicono che la misura di sviluppo di ciascuno, citazione, diviene misura dello sviluppo dello Stato stesso, e la volontà di ciascuno concorre alla formazione e determinazione della personale volontà dello Stato. Tuttavia, questo processo non è descritto in forma lineare, ma come passaggio dalla logica della società a quella dello Stato. Se anche la prima, sia la logica della società, ha il proprio fine nel secondo, i due estremi risultano sempre in conflitto. Così, per Stein, come nella vita si dà conflitto tra personale e naturale, così una pace assoluta tra Stato e società è esclusa per il concetto stesso di vita. Stein ha ripetutamente affermato il carattere divergente dei principi della società e dello Stato. L'interesse singolare e il conflitto caratterizzano la prima, l'interesse universale e l'unità caratterizzano il secondo. Nella teoria dello Stato, gli aspetti contraddittori dei due principi si ritrovano nel concetto di personalità dello Stato, secondo la bidirezionalità del suo determinarsi a partire o dal singolo, vale dire dalla società, oppure dall'idea etica, ovvero dalla Gemeinschaft, dalla comunità. Il modo di determinarsi questi due poli, secondo me, è nel rapporto tra Verfassung e Verwaltung. Allora, come abbiamo già ricordato, uno dei cardini teorici del concetto di società in Stein è costituito dal carattere necessario del suo movimento secondo i principi naturali universali della vita. Allora, l'abbiamo già visto, è intrinsecamente legato all'esprimersi dell'interesse, ha nell'esercizio della volontà naturale del singolo la sua radice, nel lavoro il suo mezzo e nella proprietà privata il suo prodotto. Quindi la società per Stein è fondamentalmente un ordine, un organismo naturale per lo sviluppo dell'interesse del singolo con ogni mezzo. Citazione: da che deve formare un organismo valido per tutti, l'ordine della società non deve essere fondato sull'essenza o contenuto di un grado determinato di sviluppo della comunità, ma bisogna che i fondamenti di esso siano posti negli elementi assoluti della personalità umana. A fianco ad elementi immutabili della personalità umana, come l'interesse e la volontà di ciascuno, che rappresentano l'ordine spirituale della società, Stein accosta però altri due elementi mutabili, il lavoro e la proprietà, che secondo Stein rappresentano l'ordine materiale. Solo nella soddisfazione dei due ordini, quello dell'interesse e della volontà e quello del lavoro e della proprietà, si realizza la libertà, come condizione da costituire e non come diritto da presupporre. Da questi elementi dipendono le forme concrete di società e la forma stessa di Stato, giacché ogni ordine della società, citazione, è Stato per Stein. In questo modo la società diviene Staats per Fassung. Quindi dalla società per Stein, senz'altro, si realizza la Costituzione, secondo l'equilibrio che i quattro termini, interesse, volontà, lavoro e proprietà, riescono a realizzare al loro interno. Il processo di costituzione dello Stato a partire dalla società è ampiamente studiato nella Geschichte, dove si esamina storicamente e si giustifica teoricamente il fatto che la società è la vera fonte di ogni libertà e illibertà. Una prospettiva inversa, ossia che presupponesse di partire dallo Stato per andare verso la società, sarebbe, secondo Stein, una pretesa astratta, poiché si fonda sul grave errore che lo Stato abbia come tale la capacità di contrastare la forza e la pretesa della società. La condizione di dipendenza che si manifesta, come si è visto, nella struttura conflittuale della società non è causata da una cattiva volontà del singolo, appunto, che vuole il conflitto, ma dall'oggettiva oggettività materiale del fondamento della società rappresentato dalla proprietà. Citazione: la superiore forza materiale dei proprietari verso i non proprietari non è causa, ma è solo conseguenza della Gewalt intrinseca alla proprietà come tale. E poiché la Verfassung effettiva è la conseguenza, ovvero la manifestazione dell'ordine sociale nell'organismo dell'autorità dello Stato, Stein deduce la necessità e inevitabilità della non libertà nella società e nello Stato. Paradossalmente, quindi, la società è produttrice di Verfassung ed essendo essa, sia il suo meccanismo di non libertà, la Verfassung è la sanzione, è manifestazione di non libertà. Ma però sappiamo che Stein ha tutto anche un secondo aspetto, l'aspetto del Sollen, ossia individuato in positivo nella riforma sociale. Questa riforma sociale dovrebbe svolgersi utilizzando la medesima logica naturale della società, La soluzione del problema, secondo Stein, dovrebbe avvenire all'interno della società, ossia dovrebbero capire, praticamente il singolo dovrebbe capire che il suo interesse è anche l'interesse della soluzione del conflitto. Veniamo un po' più avanti. Come però può capirlo il singolo, visto che invece naturalmente il suo esito non è altro che esito di tipo conflittuale? Abbiamo un articolo di Stein che ci fa intravedere invece una prospettiva diversa da quella enunciata fin qui. È l'articolo Zur preußischen Verfassungsfrage. Per esempio, in questo articolo si tratta del principio di rappresentanza e il principio di uguaglianza dei diritti politici all'interno della Costituzione. Ora, Stein in questo articolo nega che la Prussia possa esprimere un principio di Volksvertretung nella propria Verfassung, per tre ordini di ragioni: per motivi storici, per motivi economici e per motivi sociali. Storicamente, infatti, in Prussia, artefice dello Stato non è stato il popolo, ma die Regierung. In secondo luogo, economicamente, in Prussia non si dà soddisfazione dell'interesse comune mediante la soddisfazione di quello del singolo, ma all'opposto, mediante il sacrificio dell'interesse del singolo. E infine, da un punto di vista sociale, il presupposto di uguaglianza politico implicito al concetto di rappresentanza contraddice la realtà della stratificazione sociale della Prussia. Allora, per il primo aspetto, Stein ritiene che in Prussia di Volksvertretung, prima di costituirsi, debba imparare dalla Regierung, che finora è stata il punto nodale della vita dello Stato. In secondo luogo, per l'aspetto economico, per Stein solo di Regierung può garantire un'assenza di interesse tale da giustificare il benessere comune in forza del sacrificio individuale. E quindi Stein giudica che l'esistenza di una rappresentanza popolare generale e l'aspirazione di essa ai pieni diritti in quanto tali sia una contraddizione con questo Stato, sia lo Stato che richiede il sacrificio invece dell'individuo. Infine, da un punto di vista sociale, per il terzo aspetto, no, la Prussia non sopporterebbe, secondo Stein, diverse società sotto il medesimo Stato, combatterebbe ogni diversità nella figura della società cercando di dare alle classi e ai ceti economici uguale giustificazione statale. E ciò contraddirebbe appunto con la realtà storica. Per Stein, quindi, è la realtà delle cose ad impedire in Prussia la consequenzialità tra ordine della società e Stato, ossia la società che richiede il principio di Volksvertretung e invece la possibile realizzazione di questa, configurandosi una direzione inversa. È di Staatsregierung, così conclude nel suo articolo appunto sul Preußische Verfassungsfrage, ciò su cui si fonda l'origine dello Stato, che solo può combattere l'opposizione degli interessi e mantenere in piedi l'ordine sociale. Quindi, diversamente da tutta la lettura che avevamo fatto prima, Stein ammette un'iniziativa originale della Regierung, che ha il suo atto di nascita nello Stato e che, pur non incidendo sulle leggi naturali del funzionamento della società, funge da mediazione dei modi determinati con cui la società vuole erigersi a Stato sotto forma di Verfassung. È necessario allora un approfondimento di analisi che spiega il nesso di Stato e società attorno alle categorie di Verfassung e Verwaltung. Allora, si è già visto che lo Stato è la personalità in sé della comunità umana. Nell'introduzione alla scienza della pubblica amministrazione, questa personalità è definita da Stein secondo una triplice articolazione: come coscienza di sé, come autodeterminazione attiva, cioè come volontà, e come forza, ich, wille e tat. Questa è la personalità appunto dello Stato. Stein ritiene che proprio questo carattere attivo, ossia l'essere tat della personalità dello Stato, sia stato quello più dimenticato dalla teoria dello Stato, eppure l'unico che lo renda persona. Allora si prospetta una forma di arbeitende Staat, che ha nell'amministrazione il modo di svolgimento della propria azione e nella Costituzione la determinazione dello spazio entro il quale questa amministrazione dovrebbe agire. Stein così spiega questo primo livello di interdipendenza. Citazione: la Verfassung senza l'attività della Verwaltung rimarrebbe priva di contenuto, inhaltlos, mentre l'amministrazione Verwaltung senza Verfassung resterebbe assolutamente impotente, machtlos. Allora, il primo nesso tra Verfassung e Verwaltung ruota attorno al concetto di azione, e questo corrisponde all'intento di concretezza che Stein vorrebbe dare al concetto di personalità dello Stato. Allora, si è già vista la centralità assegnata al lavoro nell'analisi dell'individuo nella società e l'esigenza implicita alla volontà particolare di avere un riconoscimento di sé nella Gesamtwille dello Stato. Questa, abbiamo visto, viene soddisfatta nella Verfassung, che tuttavia nasconde in una posizione unitaria astratta il conflitto che c'è all'interno della somma delle volontà particolari. Quindi la Verfassung non può avere nessuna azione a partire dai suoi principi, in quanto negherebbe la conflittualità da cui ha origine. La Verfassung quindi è una formulazione astratta. L'azione della Verfassung, ossia che avesse origine dalla Verfassung, secondo Stein, citazione, questa azione della Verfassung è indicata da Stein col termine di Tat come un apparire della volontà senza l'esercizio di essa. Quindi appare la volontà di, appunto, di risolvere la conflittualità della società, ma non può svolgersi, altrimenti contraddirebbe la sua stessa origine. La personalità dello Stato deve invece esprimere, anziché la somma delle volontà particolari, l'allgemeine Wille, no? Nel senso di comprensione di ciò che è l'universale in tutte le forme particolari. Non quindi il singolare, ma l'unitario, non il particolare, ma l'idea universale in essa racchiusa. Nella comprensione di questo universale, che renderebbe attiva invece l'astratta Verfassung, consiste il lavoro della Verwaltung. Allora, solo la Verwaltung è Arbeit, allora, non più Tat, ma Arbeit, e Stein la definisce di tätig werdende Verfassung. La distinzione tra Tat legata a Verfassung, come apparire della volontà senza l'esercizio di essa, come abbiamo visto, e Arbeit invece legata alla Verwaltung, ha il suo presupposto nel concetto proprio di vita della personalità, che per Stein ad ogni livello si manifesti, sia nella società, come abbiamo visto, oppure nello Stato, deve inglobare tutto il processo in cui, citazione, la personalità, per mezzo della volontà e della forza attiva, rende la propria essenza contenuto dell'esserci e si introduce in modo esterno ad essa. Ossia, deve esserci un momento in cui si esamina l'oggetto su cui agire e la possibilità di trasformazione anche di questo. Ora abbiamo visto che questo non è possibile per la Verfassung perché negherebbe il soggetto da cui parte, ossia il soggetto conflittuale della società, sarà possibile allora per la Verwaltung. Dunque, come si attua l'azione reciproca tra Verfassung e Verwaltung? I termini dell'efficacia della Verwaltung sono racchiusi nella relazione tra essenza personale ed esserci, no? Ora, mentre la Verfassung è il punto d'arrivo del lavoro dell'uomo secondo il principio del movimento naturale, come si è specificato nella società, è la Verwaltung che può renderla ulteriormente attiva coniugandola con l'essenza personale e trasformarla da meta a mezzo. Ossia, fondamentalmente, Stein ritiene che la Verfassung sia punto d'arrivo di una situazione conflittuale, ma tale però non poter incidere, ossia è un'affermazione di unità astratta a partire da una situazione invece di realtà conflittuale. La Verwaltung può agire a sua volta nella società nella misura in cui trasforma alcune condizioni della conflittualità della società. Può agire in maniera indipendente, può agire in maniera autonoma e può al limite mutare anche le condizioni che hanno prodotto questa Verfassung stessa, ossia trasformare la Verfassung da meta, da fine, a mezzo per un'ulteriore trasformazione. Il lavoro della Verwaltung non è allora coercizione nei confronti dell'attività personale, ma soluzione selezione, voglio dire scelta, dei caratteri organici insidi all'interno di essa. In conclusione, mentre l'Arbeit, ossia l'Verwaltung dello Stato, ha come contenuto l'Arbeit del singolo, ossia può mutare le condizioni che appunto rendono conflittuale il processo proprio del lavoro, da parte della Verfassung non c'è questa possibilità, ma solo l'affermazione astratta di alcuni principi. Se la Verfassung, ve lo ripeto ancora, dovesse incidere, ossia dovesse applicare i suoi principi nei confronti della società, tradirebbe l'origine stessa che l'ha determinata, che è quella del lavoro del singolo. Solo in un caso, secondo Stein, ci può essere, in nome della Verfassung, vero lavoro, ossia incidenza, ossia effetto nei confronti della società, è solo nel caso della guerra, altrimenti essa è un omicidio, dice, un recht per lo Stato. Qui vedo che devo appunto accelerare, sì. Allora c'è una difficoltà logica interna alla reciprocità tra Verfassung e Verwaltung, allora c'è una soluzione, a mio avviso, di questa reciprocità. Allora, il punto di partenza per l'attività dello Stato non può essere l'autoaffermazione del singolo, abbiamo visto, da che si darebbe conflitto di singolo con singolo nella comunità stessa dello Stato. Ma è logica conseguenza dell'esclusione di ogni volontà propria diversa da quella della comunità organica. Allora, citazione. Per questo, così conclude Stein, la Verfassung di uno Stato non può contenere la Verwaltung, ossia la Verfassung come momento di soluzione, di espressione unitaria in realtà della somma delle volontà dei singoli, non può contenere questo elemento invece di personalità organica, così poco quanto la volontà è già in sé per sé o Tat, ossia semplicemente espressione di una volontà che non può realizzarsi, oppure Arbeit, e quindi invece realizzazione concreta di questa volontà. La grande funzione della Verfassung consiste piuttosto solo in questo, nel dare a questa Verwaltung la sua misura e il suo ordine, ma essa, ossia la Verfassung, non amministra niente, solo crea, a partire dalla comprensione dei compiti della Verwaltung, il diritto di essa. Perciò, solo separando amministrazione da costituzione, si può parlare di vero concetto di amministrazione. Solo a partire da questo presupposto è possibile per Stein scienza dello Stato e Verwaltungslehre. A chiarire questo passo fondamentale della teoria dello Stato di Stein intervengono due categorie filosofiche tratte dall'opera di Arthur Schopenhauer. E qui mi avvio alla conclusione, anche perché appunto ci sarebbe anche una successiva parte, ossia quella di vedere come questa riflessione di Schopenhauer possa incidere poi nel pensiero di Lorenz von Stein. In ogni modo io appunto ne accenno soltanto brevemente. Ossia, Stein utilizza, per appunto spiegare il nesso tra Verwaltung e Verfassung, il concetto di Vorstellung e il concetto di Wille. Così suona il passo di Stein. Noi sappiamo che in ogni personalità la volontà determina l'azione, come Tat, e produce lavoro, Arbeit. D'altronde è chiaro che questo processo ha origine dal fatto che l'esserci esterno, ossia la realtà che noi abbiamo di fronte, che determina la nostra volontà in vista di un lavoro, si forma dall'esserci nello spirito sotto forma di Vorstellung, ossia dal fatto che noi abbiamo la rappresentazione di questa realtà che ci sta di fronte. All'esserci, ossia la realtà, si contrappone perciò la rappresentazione di quella figura di questo mondo esterno, la quale vuole rivolgere la forza della personalità in quest'ultimo. Non è più possibile tralasciare in ogni analisi della vita, qui sono sempre parole di Stein, questa idea fondamentale di Schopenhauer. Essa è la soluzione dell'imperativo categorico e della considerazione ad esso connesse conseguenti alla filosofia pratica kantiana. Poco oltre, Stein traduce nella personalità dello Stato, la Verfassung viene tradotta in Vorstellung e la Verwaltung in Wille. Quindi l'aspetto ideale della Verfassung viene spiegato nella forma di Vorstellung. Citazione, la Verfassung deve recepire la rappresentazione delle forze e delle cose effettive esterne alla personalità dello Stato, creare in sé la rappresentazione di ciò che vuole porre attraverso la propria volontà al posto di essa, nella realtà ad essa esterna, ed approntare le sue forze per questa realizzazione. Alla Costituzione, come Verfassung, spetta quindi un compito recettivo ed uno propositivo ideale adeguato alla misura del primo. Ma a questa si contrappone, integrandolo, il compito più concreto della Verwaltung come Wille, come volontà. La Verwaltung, invece, deve avere come rappresentazione ciò che una tale realizzazione, ossia che la realizzazione del progetto della Verfassung deve produrre, e per mezzo delle categorie, del modo e della misura determinare in quanto volontà della Costituzione ciò che la Costituzione deve nuovamente creare. Verwaltung allora, e non solo realizza ciò che la Verfassung non è in grado di fare, ma nello svolgersi della sua azione dà i dettami per il progetto della Verfassung stessa. Nella seconda parte dell'articolo, che io appunto adesso tralascio, spiego come i concetti utilizzati, ossia quello di Wille e Vorstellung, siano effettivamente funzionali a questo. Ossia, se c'è una difficoltà d'origine per il fatto che lo Stato possa avere un'azione autonoma nei confronti della società, perché la società, invece, abbiamo visto, e su questo si fonda l'analisi della società nella Geschichte, ha una sua configurazione rigidamente naturale, non si può incidere sulle trasformazioni, sulle leggi, insomma, che articolano la società, allora la possibilità di intervenire all'interno della società sta invece se noi utilizziamo un concetto che è fondamento della stessa personalità, sia personalità del singolo sia personalità organica, che è quello di volontà. Schopenhauer proprio in questo ritiene di aver superato Kant, e qui appunto Stein anche cita, dice, Schopenhauer ha risolto la filosofia pratica kantiana, appunto perché non ha più utilizzato un concetto di cosa in sé, che in un certo senso è causa del fenomeno, no? Ma ha utilizzato un concetto di volontà che è tutt'altro rispetto al fenomeno, è semplicemente il fondamento, ma che non risponde affatto alla necessità logica che è quella invece espressa nel fenomeno. Se appunto noi agissimo come Stato, no, con la stessa logica, ossia come possibilità di mutare i fondamenti logici della società, in realtà ricadremmo sempre all'interno di una funzione così di soluzione di un conflitto che in realtà invece è naturale, proprio della vita stessa della società. Soltanto se noi interveniamo utilizzando un altro fondamento, ossia un fondamento che risponda a tutt'altre logiche, e Stein lo individua, pare individuarlo in quello di volontà, allora possiamo giustificare questo intervento dello Stato. Ma l'intervento dello Stato, ancora una volta, è un intervento dello Stato non direttamente, e qui appunto l'analisi eventualmente delle proposte in positivo della riforma sociale ci potrebbe aiutare, ma adesso qui non ho il tempo, ma non interviene direttamente nei processi del lavoro, proprietà eccetera, ma interviene nel garantire le condizioni ad ogni lavoro di essere a sua volta produttore di cultura e di proprietà. No, i due termini che vengono in genere utilizzati sintomatici della riforma sociale sono quelli di rapporto Arbeitbildung e Arbeitbesitz. Ossia, la Verwaltung a questo punto interviene soltanto affinché siano garantite a ciascuno le condizioni, non tanto modificare quindi la logica interna alla società, ma le condizioni affinché ciascuno, mediante il proprio lavoro, possa conseguire cultura e proprietà. Ecco allora che c'è un sistema circolare proposto da Stein, secondo tre poli: il polo della società, il polo dello Stato come Verfassung, che è la rappresentazione dei principi della società e quindi ha origine dalla società, e lo Stato come Verwaltung, che può intervenire nella società in maniera tale da mutare anche le condizioni di rappresentazione della società stessa. Certo. Quindi la Verwaltung a sua volta può essere mezzo di modificazione anche dei principi stessi della Verfassung. Ecco, e con questa circolarità si attua anche un movimento, in un certo senso, a spirale, ossia a sua volta la Verfassung si perfeziona, anche se la Verfassung, questo lo afferma spesso appunto Stein, è la condizione dei canali attraverso quali la Verwaltung deve agire, è il diritto di questa, ma il contenuto poi, la Macht e il contenuto, sono suoi propri, perché è lei che rappresenta la Wille. Naturalmente Schopenhauer arriva a sostenere che ogni azione in realtà è tradimento poi della volontà, e qui interviene invece altre considerazioni relative a Lorenz von Stein che riguardano la sua concretezza storica, ossia nella determinazione storica, ossia nell'attuazione di questa circolarità, no? E questo, questo perfezionamento possibile della, della Costituzione a partire anche dall'azione dell'amministrazione si dà un continuo perfezionamento anche della Costituzione stessa dello Stato. No? Perfetto. È chiaro che è uno stato piuttosto del dover essere ancora che non uno stato dell'essere, in ogni modo c'è una spiegazione di questo meccanismo. Benissimo, molte grazie. Io proporrei una pausa di 10 minuti, però prima, ecco, esatto, di chiarimento. Sì, cioè, potrei avere la data di questo folle richiamo di Schopenhauer? Dunque, è nell'Handbuch, quindi è nel 1800 e... Adesso io la schedina non ce l'ho qui, in ogni modo... La Verwaltungslehre è del 65, sì. Quindi l'handbook credo che 76. Sia 76. Ecco, 76. C'era lì. 76. Sì. Ecco, ma è citato anche Edward von Hartmann nel contesto o no? No, perché sarebbe interessante, cioè, mi incuriosirebbe sapere se è Schopenhauer o se è Schopenhauer attraverso la mediazione di Edward von Hartmann. No, cita direttamente Schopenhauer e in questo come realizzazione, sì, a suo avviso, anche della filosofia pratica, sì, kantiana. Sì, è chiaro che è un tradimento. Una cosa che non allora facciamo una breve pausa e poi ricominciamo con altre due relazioni.